un trambusto che sobbalza, sobbalza, sobbalza e ti sbalza lontano. E tu cerchi, cerchi, cerchi ma non trovi alcuna mano disponibile, ma indisposto, mi sento riposto in un posto che conosco. Purtroppo non ho chiaro il colore del tuo cuore, ma so che un cuore lo hai come tutte le persone. Io non tentenno per uscire dallo scontro indenne, son pronto a sacrificare una figlia come Agamennone. Un guscio di scudi e lance, il dio della pace piange sulla fanteria pesante della falange macedone. Il tristo mietitore cammina e splende di buio, mercenari infetti, lanzi che necchi del secolo XXI. La mia crociata verso la saggezza è vana come la resistenza boscimana nel Botswana. La marcia dei cosacchi contro vento nella steppa, l'eugenetica di Mengele, l'orrore del terzo Reich, la K-47 in mano ai bimbi liberiani ed il complotto del governo che a Manhattan cambia lo skyline. Le bombe sul Giappone di Harry Truman e l'avanzata inarrestabile dei cingolati russi a Budapest. Il fischio dei proiettili soffoca qualsivoglia voce, tutto è figlio del conflitto, Eraclito Doce. La scienza militare geometrizza gli organismi, la prassi sterminatrice sopprime tutti i sofismi. Un'inondazione rossa avvolge la piana dei tartari, è l'arte della guerra, Sun Tzu, Carbon Clausewitz, gusto ferruginoso nell'acqua dei gargarismi, la variabile nera del teorema dei cataclismi, la crimazione impura sopra gli indumenti laceri, è l'arte della guerra, Sun Tzu, Carbon Clausewitz. L'allarme rosso si propaga dagli altoparlanti, un'orda di valchirie furibonde in volo sui cieli polacchi, cieco materialismo da cerco pitechi, sopravvivo all'imperialismo come gli indios guatemaltechi, faccio brindisi con Socrate a calici di cicuta, la fine mi osserva con la dolcezza materna di una lupa, privo di ogni protezione come nei bordelli a Cuba, ossioni da deflagrazione fanno una scorza più dura, da un disperato desiderio di giustizia io attingo la liceità di appello alle leggi divine come Antigone, in seguito ad un duello fratricida, mio signore concedimi di onorare le reliquie, buboni purulenti sopra il derma, pioggia di morbo scarlatto, la vendetta che affligge il pianeta terra, agente arancio nello sperma, la popolazione intera sarà il rancio delle larve che infettano